Seconda stella destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere e poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment that you capture. Ci sono certi amici che non sono proprio quelli che mamma e papà sognavano per noi, li avrebbero definiti cattive compagnie. In questo caso, nel caso dell'amico immaginario di oggi, non si tratta di brutte abitudini tipo alcol o droga, anzi, lui fuma una sola sigaretta al giorno, la sera, davanti alla finestra di casa, di solito con la moglie. A vederlo da fuori sembrerebbe anche affascinante, brillante, una brava persona che si impegna per la comunità nel senso più ampio del termine, ma noi lo conosciamo bene e sappiamo, perché ce l'ha confessato lui, che un vizio ce l'ha, eppure è bello grosso. Non può fare a meno del potere. Non il denaro, non la notorietà, ma il vero potere, quello che permette di decidere delle vite degli altri, delle carriere, della vita e della morte in certi casi. Un pessimo elemento, ma pieno di fascino, di una schiettezza tale che non si può non farsi conquistare. Freddo come uno squalo, intelligente ed efficiente, grande costruttore di trame e intrighi, meglio di un ragno con la sua ragnatela. Il suo mondo è quello della politica, a stelle e strisce, tra Campidoglio e Casa Bianca. I suoi piani sono perfetti e con tutti gli elementi perfettamente incastrati per poter reggere, ma in costante pericolo, perché il suo è un gioco pericoloso, come tenere in piedi una casa fatta di carte. È così che si divora una balena, un morso alla volta. Francis Junior Underwood, detto Frank, protagonista quasi assoluto della serie House of Cards, vero e proprio fenomeno televisivo e mediatico di questo periodo, sotto tanti punti di vista. In Italia sulla TV a pagamento, negli Stati Uniti su Netflix, canale di streaming video che ha prodotto la serie. Frank Underwood è una cattiva compagnia, lo abbiamo detto, un politico immerso fino al collo negli intrighi di Washington, anzi uno dei massimi esperti di questi intrighi, da ordire come la tela di un ragno per conquistare potere su potere su potere. Il potere fine a se stesso, senza alcuna utilità pubblica, solo personale. In questo il nostro amico immaginario di oggi è un vero campione. La quintessenza del cinismo, della amoralità, dell'assenza di scrupoli, eppure così affascinante, attraente, come solo le cattive compagnie possono essere. Scopriamo qualcosa di più di lui. Adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti. Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Tra qualche secolo, quando la gente vedrà queste riprese, chi vedrà sorridere al bordo dell'inquadratura? Con l'aiuto di Dio. Francis Junior Underwood, per gli amici e nemici Frank, è nato a Gaffney, in Carolina del Sud, ha una formazione militare prima di specializzarsi in legge ad Harvard. Sposato con la bella e algida Claire, la politica è la sua vita. È il chief whip del Partito Democratico Americano, una sorta di capogruppo di maggioranza, l'uomo che tiene i rapporti tra la truppa, i parlamentari e il leader del partito, nel suo caso il presidente degli Stati Uniti. Vuole, fortissimamente vuole, il potere. Crescere nel ruolo, diventare sempre più determinante per il partito, il paese, per chiunque gli si pari davanti. Dicevamo della moglie Claire, con lei ha stretto un patto silenzioso, quello di mettere le proprie carriere davanti a tutto e a tutti. tutti. Si amano a modo loro. Amo quella donna, dice Frank, come gli squali amano il sangue. Una delusione professionale, la mancata nomina a segretario di Stato da parte del neoeletto presidente Garrett Walker, scatenerà la sua sete di rivalsa, dando vita alla serie di intrighi che è poi la trama della prima stagione di House of Cards. Lungo il suo percorso userà tutti i sistemi per togliere dalla sua strada gli avversari, grazie anche a una relazione con la giovane, bella e rampante giornalista Zoe Barnes, di cui sfrutterà i servigi non solo professionali. Beh, di certo ha la mia più completa attenzione. Bene. Il motivo per cui sono qui... I preliminari sono finiti. Ho letto che JFK non durava mai più di 3 minuti. Il punto qual è? Il tempo è prezioso. Le persone potenti non lo perdono con i preliminari. Ok, perché è qui, signorina Barnes? Ho bisogno di qualcuno con cui parlare. Stiamo parlando. Mi dica di cosa stiamo parlando. Proteggerò la sua identità, pubblicherò qualunque cosa mi dirà e non farò mai domande. Cosa le fa pensare che io non abbia già un tale accordo con uno dei suoi colleghi? Beh, non mi avrebbe mai fatto varcare quella porta. Il volto di Frank Underwood è quello del talentuoso e shakespeariano Kevin Spacey, classe 1959, 2 premi Oscar all'attivo. Già serial killer in Seven e figura quasi mitologica del crimine organizzato, Kaiser Soze, nei Soliti Sospetti. Il personaggio di Underwood arriva da lontano, dal libro House of Cards, scritto oltre 20 anni fa dall'ex capo dello staff del Partito Conservatore Britannico di Margaret Thatcher, Michael Dobbs, e adattato per la serie TV americana da Bo Willimon. Ma da dove arriva esattamente Frank? Dello scrittore, ex politico Michael Dobbs abbiamo appena detto, ma va detto anche che non nasce solo dalla sua fantasia, bensì anche da un suo brutto sentimento, quello della rivalsa, o meglio della vendetta a mezzo letteratura. Sì, perché Michael Dobbs è stato consigliere di Margaret Thatcher, avete sentito, capo dello staff del Partito Conservatore inglese dal 1986 al 1987. Una volta fatto fuori dal governo della Thatcher, ha costruito una trilogia di romanzi basati sulle vicende di Frank Urquhart, capo dello staff del Partito Conservatore, diventati poi una miniserie televisiva in onda dal 1990 sulla BBC, interpretata da Ian Richardson. Di questo sentimento di rivalsa all'origine del romanzo ha parlato anche l'attore Kevin Spacey al Late Show di David Letterman. L'origine era una serie inglese degli anni 90 con il grande attore Ian Richardson. È stata scritta da un ex collaboratore di Margaret Thatcher. Una volta cacciato dal governo ha scritto un libro, questo House of Cards, per vendicarsi. Stranamente il protagonista principale si chiama Francis Urquhart nella serie originale, Underwood in questa versione, e le iniziali sono F.E.U. Sono le iniziali di una parolaccia. Era una bella serie da 13 episodi. Io, David Fincher e Bo Willimon abbiamo deciso di rilanciarla qui negli Stati Uniti. Interpreto il capogruppo di maggioranza in un congresso fittizio, che però lavora davvero. Bentrovati all'amico immaginario e al nostro incontro con Frank Underwood da House of Cards. Vedete, Freddy crede che se un frigorifero cade da un furgone sia meglio togliersi di mezzo. Io credo che sia il frigorifero a doversi togliere dalla mia strada. Lo abbiamo detto subito, Frank è una cattiva compagnia per noi spettatori che conosciamo quanto sia profonda la sua abiezione morale. Lui ce la racconta in maniera diretta, guardandoci negli occhi, sfondando la quarta parete, come si dice in gergo teatrale e cinematografico, parlando direttamente a noi, confidandoci la sua vera natura, proprio mentre si mostra molto diverso alle persone che vivono con lui le vicende raccontate nella serie TV. Affascinante e attraente come le sirene di Ulisse in barba alle sue malefatte. È insomma uno di quei cattivi che piacciono e Frank Underwood è in buona compagnia. Sentiamo Chiara Pizzimenti. Non l'antagonista classico, quello che si contrappone all'eroe protagonista, ma un personaggio che è il protagonista della storia senza avere le virtù dell'eroe, o se le ha, le usa in un modo che si potrebbe dire alternativo. talvolta sono Robin Hood moderni che rubano ai poveri per dare ai ricchi, ma in fin dei conti sempre compiono un'azione illegale. Adoro Halloween. È l'unico periodo dell'anno in cui tutti portano una maschera, non solo io. La gente trova divertente fingere di essere un mostro. Io passo la vita a far credere di non esserlo. Fratello, amico, fidanzato. Tutte maschere che indosso ogni giorno. Qualcuno mi definirebbe un impostore. Questo è Dexter, uomo della scientifica di Miami di giorno e serial killer di notte, soltanto però di criminali sfuggiti alla giustizia. Insomma, il fine giustifica i mezzi e in fin dei conti anche il principe di Machiavelli è un antieroe. Lo è il Walter White di Breaking Bad, da professore di chimica a creatore di metanfetamine per garantire la sicurezza economica della famiglia, quando lui non ci sarà più. È antieroico il cinismo del dottor House, difficile dire quale sia la virtù dei Sopranos, ma Tony rimane nella memoria collettiva e forse sono i suoi difetti più che i suoi pregi a farcelo piacere, come accade a tanti personaggi dei film di Scorsese. Basti pensare a Quei bravi ragazzi e a molta filmografia di Quentin Tarantino, Le Iene come Pulp Fiction, al suo fascino Don Vito Corleone, che certo buono non è, come Hannibal Lecter. Bene, Clarice. Gli agnelli hanno smesso di gridare. Dottor Lecter, non cercare di rintracciarmi. Non parlerò abbastanza a lungo. Dov'è, dottor Lecter? Non ho intenzione di farti visita, Clarice. Il mondo è più interessante se tu ci sei. Così fai in modo di farmi la stessa cortesia. Sa che non posso farle questa promessa. Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Addio. Dottor Lecter. Non che si faccia il tifo per Darth Vader contro suo figlio Luke, ma qualsiasi bambino subisce il fascino del mantello nero e della spada laser rossa. Joker vince su Batman, almeno nelle ultime versioni cinematografiche. Altre volte gli antieroi sono mascalzoni e basta, ma il loro bello sta proprio lì. Lank Moody di Californication, molto sesso, altrettante droghe e alcol, e il Don Draper di Mad Men, bugiardo, donnaiolo e maschilista, ma carismatico e affascinante. Quindi cattivi che ci affascinano, e Frank per essere cattivo è cattivo. Allora parliamo con una vecchia amica dell'amico immaginario, la giornalista e critica televisiva Lorenza Negri. Lorenza, Frank Underwood è un uomo senza scrupoli, al quale però ci si affeziona in fretta. Come mai? Ah, è una cosa molto curiosa il fatto che si finisce per affezionarsi a Frank Underwood. E ci sono sostanziali differenze tra il suo personaggio nella versione originale britannica e quella che vediamo oggi. Tant'è che l'autore dei romanzi, Lord Hobbs, ha detto all'inizio: non riuscivo a spiegarmi come avrebbe potuto interpretare questo ruolo. Poi l'ho visto e ho capito. E ha capito che un attore del calibro di Kevin Spacey era in grado di portare in scena praticamente qualsiasi cosa, anche un personaggio così diabolico, e farlo piacere. È molto aiutato dal fatto che Underwood parla in camera, si rivolge direttamente allo spettatore, crea un contatto diretto. E non è un fattore di poca importanza in un caso come questo. Quello che fa è inenarrabile. Quello che è disposto a fare per sacrificare il prossimo per raggiungere i suoi scopi, lo fanno in... sì, ne fanno un cattivo. È una questione molto più complessa di così. C'è da chiedersi quanto sia peggiore di altri, perché comunque è in buona compagnia. Ed è altrettanto interessante notare l'evolversi della situazione con la moglie, che è un'altra figura interessantissima. Il suo personaggio è ancora più complesso, è ancora più riflessivo, pieno di segreti. Poi non vogliamo dire niente, ma qualcosa in più su di lei si saprà. Di Claire, interpretata da un'altrettanto brava attrice, Robin Wright, parleremo più avanti. Ora ci concentriamo sulla serie TV House of Cards, un fenomeno nato dalla piattaforma di distribuzione di contenuti Netflix, ultima frontiera della televisione conosciuta. La piattaforma, che in Italia non è ancora disponibile, chissà quando lo sarà, permette la visione a pagamento di film e serie TV. Insomma, streaming online on demand, per usare i termini giusti. Netflix sta facendo numeri da capogiro negli Stati Uniti, a breve arriverà anche anche in Europa, Germania, Francia, Belgio, si parla anche di Austria, Svizzera e Lussemburgo. Ebbene, House of Cards è stata prodotta da Netflix. Il fenomeno è quindi questo: una serie difficile, non una sitcom o un prodotto tradizionale, a tema politico, che diventa cult nel giro di un paio d'anni. Sentiamo dallo stesso Kevin Spacey, sempre nel salotto di David Letterman, le ragioni del suo coinvolgimento da attore ma anche da produttore esecutivo in un progetto così nuovo. Sono emozionato perché è la prima serie prodotta da Netflix e credo sia la prima volta in cui viene resa disponibile tutta la prima stagione già al primo giorno. La gente può scegliere quali episodi vedere e quando. Seguendo questo esempio, credo che la TV e il cinema realizzeranno quello che l'industria musicale non è riuscita a fare: dare alle persone quello che vogliono a un prezzo ragionevole, e lo compreranno senza rubarlo. In Italia House of Cards è in onda sulla Pay TV, in particolare su Sky Atlantic. La serie non ha dovuto subire il destino di altri programmi simili e rivolti a un pubblico non da prima serata generalista, di solito programmati a ore da vampiri, magari saltando puntate o cambiando orari di settimana in settimana. È successo in passato ad West Wing, altra serie politica, o ad Newsroom, solo per citarne un paio. Sentiamo ancora Lorenza Negri su questo. C'è da ringraziare la piattaforma, onestamente. Una serie come House of Cards, che è comunque una serie di Netflix, ci si aspettava che sarebbe in Italia arrivata Netflix, comunque che aspettiamo, che invece viene trasmessa da un canale come Sky Atlantic, una linea editoriale molto precisa, grandi nomi, grandi storie, quindi attori pluripremiati con Oscar, sceneggiatori altrettanto importanti, fa capire che c'è anche un rispetto sia nella traduzione, nell'adattamento, nella trasmissione, anche nell'evitare censure, versioni incomprensibili degli episodi. Questo tipo di rispetto, secondo me, viene anche percepito dallo spettatore che si aspetta un tipo di prodotto. Certo che per quanto una serie possa piacere, se uno deve dare la caccia al giorno di programmazione, all'orario, poi l'episodio è sbagliato, poi ci sono degli errori di traduzione incommensurabili, anche lo spettatore più fedele si stufa. Prima di salutare la nostra prima ospite, un'altra domanda. Non è una serie TV semplice, abbiamo visto, va in Italia sulla Pay TV, ma è lo stesso diventata molto popolare. Come ce lo spieghiamo, Lorenza? Bella domanda, soprattutto considerando che non è il tipo di serie politica, un po' ironica, un po' satirica. È più difficile, molto più complessa rispetto a quello a cui siamo abituati. E ci sono tanti precedenti, sia nel Regno Unito, dove hanno fatto delle serie che da noi non arriveranno mai perché sono veramente troppo sfacciate per i nostri gusti, a cose un po' più delicate come alcune serie americane, come West Wing, come tante altre cose. Perché piace così tanto? Un personaggio di tale grandezza come lo è Underwood è un personaggio di natura shakespeariana, di grandezza shakespeariana, e quindi in qualche modo rende lo spettatore, viene catturato lo spettatore da una tale complessità, da una tale quasi maestosità del personaggio. Io personalmente non sopporto le serie politiche, eppure trascorro nell'attesa di un nuovo episodio. E di sicuro il fatto che Frank Underwood ci parli direttamente, sfondando quella parete che per consuetudine ci divide noi spettatori dalla storia, dalla recitazione, questa è una ragione del grande fascino di questa serie, di questo personaggio. Un rapporto intimo in un certo senso. Frank nasconde la sua vera natura al suo mondo, ai suoi colleghi politici, quasi a chiunque, ma non a noi. A noi svela la sua vera natura, come a non volerci ingannare, mentre inganna tutti gli altri con successo. Come in questo discorso pubblico, a una cerimonia funebre. Mio padre è morto per un attacco di cuore a 43 anni, 43 anni. E quando è morto ho alzato gli occhi a Dio e sì, ho detto quelle parole. Perché mio padre era così giovane, così pieno di vita, pieno di bei sogni. E allora perché il nostro Dio ce l'ha portato via? A dire il vero non ho conosciuto né lui né i suoi bei sogni. Era silenzioso, timido, quasi invisibile. Mia madre non lo stimava, la madre di mia madre lo odiava. Quell'uomo non sfiorava la superficie della vita. È stato un bene che sia morto giovane. Non faceva che occupare spazio. Ma questo non sarebbe stato un elogio molto convincente. Ho pianto, mi sono disperato. Perché, Dio? Come posso fare a non odiarti? Quando tu mi hai portato via la persona che amavo di più al mondo e ammiravo con tutto me stesso. E prima della pausa introduciamo un nuovo ospite proprio per parlare di questo escamotage, lo sfondamento della quarta parete. Franco D'Assisti, la voce del cinema di Radio 24. Ciao Franco, tra poco parleremo di Kevin Spacey, ma prima, se non sbaglio, è quasi un tabù per i puristi del cinema quello della quarta parete, vero? Beh, è sicuramente un escamotage, diciamo, di recitazione, come hai detto giustamente, non molto ammirato e apprezzato dai puristi della critica e dell'esegesi cinematografica. Nel cinema, teoricamente, e intendo proprio nella teoria del cinema, la quarta parete è inviolabile, però è stato fatto comunque anche nel cinema in passato, quasi come fosse una buttata, una trovata di un regista particolarmente brillante o dissacrante. Ecco, questo invece meccanismo di Kevin Spacey, che appunto sfonda la quarta parete, a volte addirittura letteralmente a calci, proprio con ammiccamenti, con sorrisi, parlando dritto al pubblico, è proprio invece una volontà chiara, quella di, come dicevi tu, avere una comunicazione più diretta, avere una comunicazione confidenziale con il pubblico. E se il pubblico a questo punto non è più il pubblico di una grande sala cinematografica, ma il pubblico che, come dire, si ritira nell'intimità di una visione individuale o al massimo di una famiglia rispetto al prodotto, ecco che quel tête-à-tête diventa più stretto, ecco che lo sfondamento della quarta parete è quasi il consiglio, il sussurro nell'orecchio di un amico, e diventa a questo punto linguaggio metacinematografico, diventa qualcosa che non è più una goliardata, ma è un meccanismo di comunicazione, è un altro dei grafi intelligenti voluti da questa serie. Ben trovati all'amico immaginario. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti, da Frank Underwood e dal meraviglioso attore che lo impersona, Kevin Spacey. Stella di prima grandezza, di Hollywood, grande interprete di Shakespeare, a teatro, anche imitatore di notevoli capacità, come avremo modo di sentire nella scheda di Chiara Pizzimenti. Meno si sa della mia vita privata, più facile è convincere lo spettatore che sono il personaggio che interpreto. Parola di Kevin Spacey, anno 1998, in una intervista al London Evening Standard. Una filosofia di vita mai lasciata da uno degli attori più talentuosi ed enigmatici degli ultimi 30 anni. Quando vinse il primo Oscar come attore non protagonista per I soliti sospetti, lo accompagnò la madre, ringraziata per averlo portato alle lezioni di recitazione. I thank my manager Joanne, my agent Brian Gersh, and on a personal note to my mother, I am so proud that you can be here tonight. Thank you so much. Thank you so much, Mom, for driving me to those acting classes on Ventura Boulevard when I was 16. I told you they would pay off, and here's the pudding. Thank you. Quando gli hanno consegnato la seconda statuetta come protagonista per American Beauty, ha citato la fidanzata di lunga data, ma soprattutto ha ricordato il mito e mentore Jack Lemmon. A chi lo diceva gay ha risposto di non esserlo, ma le sue aperture sulla vita privata sono state fatte solo per far soffrire meno le persone che ama. Ancora una volta parole di Spacey, non certo tipo da paparazzi e apparizioni concordate, mai sposato, non ha figli. Attore che viene dalle scuole, compresa la Juilliard di Saranno Famosi, mai terminata. E dal teatro, il New York Shakespeare Festival e Broadway agli inizi. Dal 2003 direttore artistico di uno dei più antichi teatri londinesi, l'Old Vic. I grandi classici dunque che si mescolano con la conduzione del Saturday Night Live, dunque roba da comici, come le imitazioni. E ci vuole coraggio a imitare Al Pacino e Jack Nicholson se sono seduti di fronte a te. Kevin, how are you? Nice to see you. Oh, shut up, Dave. They like it. Oh, Dave, you're a big man. Yeah. I'll give you a stick of gum. You can show me how to chew it. Oh, hoo-ha. Kevin Spacey, ladies and gentlemen. We'll be right back with Al Pacino. Ladies and gentlemen, Kevin Spacey. As you just saw, one of the stars of Heartburn was Jack Nicholson, and he gave me some pretty good advice about working with Mike. Another day, another $50,000. Al cinema, Spacey, nato nel New Jersey nel 1959, ci è arrivato alla metà degli anni Ottanta. I primi ruoli non sono da protagonista, appena lo si intravede in Una donna in carriera. La fama l'ha ottenuta 10 anni dopo, con il truffatore claudicante dei Soliti Sospetti, quello che inganna la polizia inventandosi il cattivo Kaiser Soze. È il primo di una serie di personaggi indecifrabili e per questo affascinanti. Un lato oscuro c'è sempre. Dal cattivo di Seven al detective di L.A. Confidential, passando per il Lester di American Beauty, fallito con la mente offuscata dall'amica della figlia ricoperta di petali di rosa. Fa il produttore, dirige e arriva fino alle serie in TV e non solo in TV, ultimo esempio della versatilità e della lungimiranza di un'intera carriera. E allora ne parliamo con Franco D'Assisti, la voce del cinema di questa radio. Franco, traccia per noi un profilo di Kevin Spacey. Kevin Spacey è stato sicuramente l'attore simbolo di un certo cinema americano degli anni 90, è stato il suo momento, senza ombra di dubbio. Lui diciamo esordisce a livello di successo con Hurtburn, Affari di cuore di Mike Nichols nell'86, è il film che lo fa conoscere un po' tutti, però poi dopo infila in quegli anni una serie di titoli con partecipazioni più o meno importanti, ma da Una donna in carriera, Non guardarmi non ti sento, Harry and June, eccetera eccetera, poi Nelle mani di James Foley con Americani, uno straordinario film che riprende un po' i temi di morte di un commesso viaggiatore tanto cari al cinema americano, fino ad arrivare poi appunto a metà degli anni 90 alla esplosione assoluta con I Soliti Sospetti, con questo ruolo di Kaiser Soze per la regia di Bryan Singer. Da lì arrivano subito dopo Seven, che lo lega a David Fincher, con cui i destini si incroceranno di nuovo in futuro, e una serie di altri film molto molto importanti che hanno avuto grande circolazione, come L.A. Confidential per esempio, American Beauty, che è stato forse anche un altro dei momenti chiave della sua carriera. Ricordiamo, premio Oscar nel 96, non protagonista per I Soliti Sospetti, nel 2000 miglior attore protagonista, ancora un Oscar per American Beauty. Insomma, un attore poliedrico, con la faccia cinica, quindi sicuramente non destinato a una carriera da eroe, ma a una carriera da torbido, da attore che interpreta e incarna quella parte, la metà nera, no? Dark Half del cinema americano e della società americana. Attore di talento enorme, tanto che anche quando è uscito un po' dal giro, diciamo, della prima voce di Locandina, del primo nome di Locandina, anche negli anni 2000 però ha messo dentro, anche a servizio a volte di commedie, dei ruoli cinici davvero molto divertenti, come per esempio nei due film di Come ammazzare il capo e Vivere felici. Franco, cosa è successo nella televisione e nel cinema di questo periodo, tanto da farci vedere due grandi attori come Spacey e Robin Wright in una serie TV, seppure così importante come House of Cards? Perché qualcosa deve essere successo. Sì, e allora lì è successo ovviamente qualcosa, ma è successo qualcosa nel mondo del cinema e nel mondo della televisione, e chiaramente tutti ve ne sarete accorti negli ultimi anni. Cioè, è successo che a un certo punto il cinema americano ha smesso di avere ruoli importanti, ha smesso, o diciamo, sono molto diminuiti, ma molto molto diminuiti i ruoli determinanti, importanti, di primo piano per gli attori della generazione di Kevin Spacey e anche di generazioni precedenti, che chiaramente hanno ancora un appeal grandissimo presso registi, autori del cinema americano, però nel cinema mainstream trovano sempre meno spazio, non perché siano diventati meno bravi, ma perché cambia il pubblico. Oggi in America il cinema è una questione, se non solo, non è solo una questione di teenagers o di blockbuster, cioè di grandi film sui supereroi da 200, 300, 400 milioni di dollari di incasso, oppure per bambini, oppure per adolescenti. Ci sono chiaramente anche gli altri film, ma sono sempre più film indipendenti, probabilmente ce ne saranno sempre di più ad andare a cercare il proprio pubblico, fra quel pubblico televisivo magari di 40, 50, 60 anni o anche diciamo a partire dai 30, che non è però più il pubblico del cinema in sala, il popcorn movie, per intenderci, quello dei teenagers o poco di più. Colpisce anche il fatto, Franco, di come Kevin Spacey si sia prestato a un progetto così innovativo, una serie prodotta da un canale di distribuzione streaming, facendo anche il produttore. E poi non solo lui, perché David Fincher, il regista, ha fatto appunto la regia di due episodi, Jodie Foster la regia di un altro. Come te lo spieghi? Ma a mio modo di vedere lui legge molto bene il presente, perché se fra la sala cinematografica e la televisione la fruizione cambia in maniera radicale, tra l'esperienza home e l'esperienza streaming non c'è più alcuna differenza, l'esperienza internet, intendiamoci, come sempre a capitanare e a pilotare queste rivoluzioni sono spesso gli strumenti tecnologici, l'avvento dei televisori, delle smart TV come si chiamano, chiaramente ha pareggiato i conti fra vedere in televisione e vedere al computer, questa differenza non c'è più e chiaramente a questo punto la fruizione su TV attraverso comunque il cavo della rete internet diventa praticamente la medesima. In questo senso Kevin Spacey ci ha visto assolutamente giusto, Netflix è un colosso clamoroso che nel secondo trimestre del 2014, quindi dati aggiornatissimi, ha avuto un giro d'affari di 1.340 milioni di dollari, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente, tra l'altro si appresta a sbarcare in Europa, è proprio notizia degli ultimi giorni, non ancora in Italia ma in Francia, Inghilterra, Svizzera eccetera, e allora ecco che ha assolutamente senso, perché come dicevi tu, stare a vedere una serie televisiva non dovendo aspettare la settimana, non dovendo sperare in quei santi ragazzi che di notte sottotitolano i telefilm, ma potendo fare tutto quando si vuole nella totale logica dell'on demand, che oggi governa anche molta TV a pagamento anche in Italia, con soluzioni che i due principali competitor della piattaforma digitale terrestre e satellitare hanno adottato, mi sembra quasi un passo naturale, che segna come ormai un certo tipo di cinema americano non abbia più paura di nulla e tantomeno ormai della soluzione streaming, coadiuvata comunque da tecnologie adeguate a vederla in un certo modo. Restiamo in ambito cinematografico e televisivo per provare a fare mente locale sul tema, sul contesto di House of Cards, la politica e sui suoi precedenti, sul piccolo e grande schermo, partendo sempre da Washington e sempre da uno scandalo, in questo caso molto famoso. Cos'altro hai? Secondo alcuni funzionari della Casa Bianca, Hunt senza dubbio lavorava lì come consulente di Coulson. Si tratta di Charles Coulson, consigliere particolare del presidente. Hai chiamato l'ufficio stampa della Casa Bianca? Ci sono andato, hanno detto che Hunt non lavorava lì da 3 mesi. Un tizio poi se n'è uscito con una strana frase. Ha detto: sono convinto che né il signor Coulson né nessun altro alla Casa Bianca era a conoscenza di o aveva partecipato in questo deplorevole incidente al Comitato Nazionale Democratico. Beh, non è quello che ti aspettavi di sentirti dire. Proprio così. Ma non avevo parlato del Watergate. Avevo chiesto solo cosa faceva Hunt alla Casa Bianca. Hanno affermato che non era colpevole quando nessuno gliel'aveva chiesto. Attento a come lo scrivi. Il cinema lo ha fatto per primo, ma la TV è arrivata più in profondità, soprattutto negli ultimi anni, a raccontare la politica e il potere. Ovviamente la politica e il potere di cui parliamo sono soprattutto quelli americani. E se il grande schermo ha scandagliato in lungo e in largo alcuni presidenti, da Lincoln a JFK, passando per Nixon, il piccolo schermo fa entrare lo spettatore direttamente nelle stanze dei bottoni, magari romanzandole un po'. Lo stesso presidente Obama ha definito la vita a Washington più monotona di quella che si vede in TV o al cinema. Evidentemente non c'è uno scandalo Watergate tutti i giorni, questo è tutti gli uomini del presidente, e non tutti i giorni il presidente è accusato di aver molestato una scout alla Casa Bianca, come succede in Sesso e Potere, in cui Robert De Niro e Dustin Hoffman sono costretti a inventarsi una guerra in Albania per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica. Allora, nello stesso tempo chiamate il generale Scott allo Stato Maggiore e mettetelo immediatamente su un aereo per Seattle. È agitatissimo e ha urgenza di vedere quelli della Boeing. Ma cosa? Non esiste un bombardiere B-3. Se vuole puoi chiamarlo B-4. Non capisco. Senta, cerchi di svegliarsi. Se quel bombardiere non esiste, per quale ragione il generale Scott è a Seattle per parlare con la Boeing? Non funzionerà, non la berranno mai. Non c'è bisogno che la bevano, dobbiamo solo fuorviarli e basta. Tutto qui, mancano meno di 2 settimane alle elezioni. Sì, ma che diavolo si può fare? Non mi viene in mente niente, a lei? Beh, ci sto lavorando.

Che tipo di potere desidera Frank Underwood? È un potere, diciamo, che perde di vista una delle sue caratteristiche fondamentali della modernità, che era quella della visione, cioè di una concezione della politica che si proiettava nel lungo periodo. Ecco, in House of Cards tutto questo scompare, perché il Frank Underwood, che è il protagonista della serie, è un politico che è interessato esclusivamente a portare avanti la sua carriera e che trova soddisfazione essenzialmente nel perpetrare la sua posizione di potere. Nel saggio di cui tu hai parlato faccio l'esempio del giocatore d'azzardo. La figura del giocatore d'azzardo è molto simile a quella di Frank Underwood, perché si trova ogni volta a dover scommettere o a puntare su qualcosa che non conosce, ma che può solamente prevedere o odorare. E Frank Underwood fa esattamente la stessa cosa, e non lo fa semplicemente per vincere, al contrario, lo fa per questa sua mania di continuare a giocare. Quindi l'obiettivo di Underwood è quello di un potere fine a se stesso, che non ha altri obiettivi se non quello di perdurare nel tempo. Non c'è alcuna propensione verso il cittadino, verso gli elettori. Potere e corruzione, ma non solo dei politici, perché nella serie anche i giornalisti, i sindacalisti, i lobbisti sono corrotti. Tutto questo nella città simbolo della politica degli intrallazzi, Washington. C'è un legame? Tutto quello che viene rappresentato nella serie è possibile proprio perché siamo all'interno di una realtà metropolitana. E questo genere di comportamenti, un comportamento che possiamo definire spietato, a volte anche efferato, ma che tendenzialmente è un comportamento cinico, nasce storicamente all'interno delle metropoli moderne. E non sorprende, diciamo, che i sceneggiatori abbiano ambientato questa serie televisiva proprio a Washington, proprio nella metropoli con cui noi raffiguriamo il potere americano, che è una metropoli evidentemente di cui viene data un'immagine come una metropoli completamente corrotta, ma questa incapacità di mantenere fede ai propri precetti, ai propri ideali iniziali, come nel caso di Zoe Barnes, la giornalista, è forse descritta come una delle poche modalità che consentono la vita all'interno della metropoli, perché questi personaggi altrimenti, se non si adattassero a questa nuova forma di vita, sarebbero completamente fagociti dalla metropoli e dai suoi meccanismi di funzionamento. E per tutti gli appassionati del libro di Dobbs, una buona notizia: in arrivo in Italia il seguito del romanzo, che da noi si intitolerà House of Cards 2, Scacco al Re. Un'intuizione vincente dell'autore che 20 anni fa, come lui stesso ha scritto, prevedeva un momento di crisi profonda per la famiglia reale inglese e per la corona in generale. È con noi il traduttore del primo libro e di questo in uscita, Stefano Tummolini, a cui chiediamo qualche anticipazione sul nuovo romanzo. Sì, nel secondo volume Urquhart è diventato primo ministro e proprio inizia col suo insediamento e quindi con la nomina ufficiale che appunto in Gran Bretagna viene fatta attraverso l'incontro col sovrano. E poi tutto il romanzo è costruito su questo conflitto fra il primo ministro e il re, che nasce in maniera un po' inaspettata. Solo a un certo punto poi si capisce qual è il vero motivo dell'acrimonia di Urquhart nei confronti di questo re, che in fondo è un mite, cioè è abbastanza giovane, è vagamente ispirato al personaggio di Carlo d'Inghilterra, lui del resto lo esplicita nella prefazione, però in realtà è un sovrano, appunto, potrebbe essere inoffensivo, soltanto che neanch'io voglio svelare troppo, però insomma a un certo punto involontariamente va a toccare un punto debole del protagonista e questo scatena in Urquhart la sua ferocia, quindi tutto poi si gioca su questo scontro al vertice che rischia di mettere addirittura a repentaglio poi la Costituzione a un certo punto. E dicevamo, introducendo il seguito di House of Cards, che Dobbs ha in qualche modo anticipato la crisi della corona inglese, degli scandali e così via. Sì, credo appunto che nel momento in cui l'ha scritto, credo sia proprio il 90, l'anno in cui è stato scritto il romanzo, lui avesse avuto il sentore, così come penso buona parte dell'opinione pubblica, del fatto che l'istituzione stava un po', entrando in crisi, ma insomma attraversando un momento un po' burrascoso. E quindi lui furbamente anche ha preso spunto dai fatti di cronaca, e, ovviamente distanziandosi a un certo punto, perché oltre al personaggio del re c'è quello di una principessa che è sempre la ribalta delle cronache mondane, e insomma tutti ci ricordiamo quanto, no, Lady Diana fosse controversa da questo punto di vista, e anche se poi questa principessa non ha nulla a che vedere con Lady Di psicologicamente, caratterialmente, però questo fatto appunto della sovraesposizione è sicuramente un elemento determinante nel romanzo, diventa poi una chiave di volta per Urquhart, che lo porta a mettere in crisi il re. Il tempo a disposizione è finito. Ultima puntata in onda dell'Amico Immaginario, ma se volete sul sito di Radio 24, nella sezione podcast, trovate tutte le puntate di questo ciclo e anche dei precedenti. A me non rimane che ringraziare per l'aiuto Chiara Pizzimenti e Barbara Righini e voi per l'ascolto. Un saluto da Giovanni Savarese.